24, la storia. L'atmosfera era, se vogliamo, natalizia. In un attimo io ho sentito una specie di tonfo, come se una cosa... Cosa è successo in quel momento? È successo tutto. Mi sentivo in trappola, mi sentivo sotterrata. Ho pensato che i superstiti, dall'altra parte, fossero tutti morti. Quella era la prima volta in cui ti faceva una strage con un telecomando. È stato il primo caso di strage mafiosa. Per presenze strane si intende presenza dei servizi segreti. Alle 19.08 del 23 dicembre dell'84, una bomba collocata sul treno Milano-Napoli esplode nella galleria del Vernio. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di una strage, quella del Rapido 904. 16 morti, quasi 300 feriti, proprio quando l'Italia sperava di essere uscita per sempre dagli anni di piombo. Ma la strage di Natale è anche un mistero criminale e giudiziario, un intreccio tra mafia, camorra, estremismo di destra, malavitosi italiani e stranieri. L'unica strage in Italia di cui siano stati condannati i mandanti, di cui però ancora non è chiaro il movente, o chi siano stati gli esecutori. Pentiti che ritrattano, testimoni che spariscono, presunti stragisti uccisi a loro volta. È sullo sfondo l'ombra dell'attentato della Daura contro Giovanni Falcone. E di recente nuovi elementi, nuove piste, nuovi interrogativi. Quella del 904, insomma, è una storia tutta da scrivere, da capire fino in fondo. Una storia che comincia in una tranquilla domenica natalizia. Domenica, 23 dicembre 1984. Natale alle porte. C'è aria di festa. I telegiornali raccontano di un'Italia che si sposta, autostrade trafficate, turisti in vacanza, treni affollati. Così il ricordo di Cinzia Esposito e Anna Rizzo. Mi accompagnarono i miei genitori, salirono sul treno e insomma guardavo un po' negli scompartimenti dove c'era posto, guardavo che persone c'erano e insomma mia mamma disse: beh, sediti qui, e, insomma sembra una situazione abbastanza tranquilla. Viaggiavo tutte le settimane con una collega di Salerno. Io avevo superato un concorso e lavoravo in banca da qualche mese. Sicuramente ero una ragazza piena di sogni, ma come del resto tutti quelli della mia generazione. Avevamo la fortuna di poter sognare. Stazione di Napoli Centrale. Alle 12.55 dal binario 11 parte il Rapido 904, destinazione Milano Centrale. Arrivo previsto alle ore 22. Emigranti e parenti di emigranti che si vanno a riunire alle loro famiglie. È bello stare insieme, soprattutto a Natale. Ancora Cinzia D'Esposito. Nello scompartimento c'era una signora con due figli, due bambini. Tutti quanti facemmo una lunga giornata insieme, trascorremmo questa lunga giornata insieme, mangiammo, chiacchierammo, persone molto semplici. Insomma, poi comunque era il vagone di seconda classe, insomma c'erano persone che trasportavano appunto dolci, damigiane, con vino, insomma c'era di tutto, però niente di strano, insomma. Domenica è sempre domenica. Dopo la diretta della radio, molti italiani si mettono davanti alla TV per guardare Novantesimo Minuto, la storica trasmissione che racconta la giornata di campionato. Quel 23 dicembre il Napoli di Maradona è stato sconfitto dalla Juventus di Platini, 2-0. Sono finiti gli anni di piombo e l'epoca della Milano da bere. La Fiat ha lanciato la 1 e le televisioni commerciali spopolano. In quei giorni di vacanza i più fortunati vanno in villeggiatura. Anche il presidente Pertini si prende qualche giorno di ferie. Così Anna Rizzo. Eravamo arrivati lì alla stazione di Firenze, che avevamo un po' sonnecchiato, un po' dormivamo, un po' leggevamo. Poco dopo le 19, il Rapido 904 oltrepassa la stazione di Vernio in Toscana. Poi entra nella galleria degli Appennini, la più lunga d'Italia. un rettilineo di 18 km tra Firenze e Bologna, dove la velocità raggiunge i 150 km all'ora. Così il racconto dei testimoni sopravvissuti. Io avevo la testa chinata nello scrivere, il cappello, cappotto, perché era d'inverno. In un attimo io ho sentito una specie di tonfo, non uno scoppio, una specie di tonfo, come se una cosa... A un certo punto c'è stata una tremenda esplosione. Lo spostamento d'aria mi ha buttato ai piedi delle persone che erano nel compartimento. Ho avuto, diciamo, una flebile percezione di stare, di morire. Non percepivo il corpo, ma solo il cervello e solo questo lumicino che mi legava alla vita, no? C'è stato anche l'impatto violentissimo di una carrozza sull'altro, di un vagone sull'altro, perché si è fermato all'improvviso. C'era gente che urlava in maniera straziante, forse urla che non ho mai sentito, insomma, così, proprio così da dentro, così dal cuore, così dalla disperazione. Io pensavo ottusamente, insomma, ma dove vanno, dove si avviano, cominciano a camminare, vanno, si fanno tutta la galleria a piedi, cosa sperano di raggiungere? Alzando gli occhi mi sembrava di vedere il cielo. È una sensazione strana sapere poi dopo che quella era la galleria più lunga d'Italia e che non avremmo mai superato a piedi. È stato qualcosa di indicibile. Le urla, le grida, il terrore, il panico, scene viste troppe volte nella storia del terrorismo e delle stragi in Italia. E quella stessa galleria, per giunta esattamente 10 anni prima, è stata il teatro di un altro eccidio. La bomba sul treno Italicus. Continuiamo subito dopo la viabilità con la storia di quel treno maledetto, il Rapido 904. Rieccoci a Mix24. Oggi stiamo raccontando la tragedia del Rapido 904 diretto da Milano a Napoli. È il 23 dicembre dell'84 e i viaggiatori sono travolti da un'esplosione. Da Vernio all'estremità toscana della galleria, dove c'è stata l'esplosione, un gruppo di ferrovieri e di medici prova a entrare nel tunnel per prestare i primi soccorsi ai feriti, così le loro testimonianze. Io quando sono entrato in galleria, la seconda volta, che ho cominciato a vedere un braccio, poi ho visto un piede, poi ho visto la testa, io proprio da un lavoro, bella la testa lì, e mi è venuto non so che... Però il nervoso che avevo in corpo in quel momento lì, se c'era il corpo lì l'avrei messa lì attaccata a vedere se riuscivo a farla rivivere ancora, sta persona, sta ragazza, perché era una ragazza sicuramente giovane. Come fa una persona a fare un lavoro così, a creare un danno così? Non è tanto il danno materiale, col treno si rifà, ma le persone che muoiono, che non si rifanno. È questo che io voglio dire. Era un treno pieno di bambini. Nessuno glielo ha detto, ma la mamma di Federica ha capito da sola che sua figlia è morta. Poco tempo dopo morirà anche Gioacchino, il padre di Federica. Con lui i morti della strage di Natale salgono a 16. I familiari delle vittime rifiutano i funerali di Stato. I morti verranno commemorati separatamente, ciascuno a casa sua. Lontano dalle cerimonie ufficiali. Un segnale dal valore simbolico fortissimo. Così ricordo del giornalista Gigi Fiore. Ci fu una profonda emozione, ci fu una profonda risposta e partecipazione. Io ricordo personalmente che era la vigilia di Natale e notoriamente uno dei giorni in cui tutti i giornali sono chiusi, la vigilia di Natale e Natale, e fummo richiamati tutti in servizio per fare un numero speciale su questo evento terribile, tremendo. Immagini che si ripetono come in un'infinita replica di una tragica messa in scena. Decine di morti, nessun mandante, nessun colpevole, ma questa strage è diversa. Nell'84 il terrorismo nero è finito da un pezzo e perfino l'ultima risoluzione delle Brigate Rosse si intitola «Come uscire dall'emergenza». È ovviamente diversa l'Italia dell'84. In quella bomba nella galleria del Vernio, insomma, c'è qualcosa che non torna. Perché qualcuno vorrebbe poter riportare il paese negli anni di piombo? Perché con una strage? E perché con una strage proprio nella stessa galleria dell'Italicus? Naturalmente gli investigatori non hanno dubbi, non è e non può essere una semplice coincidenza, semmai un messaggio in codice, un avvertimento per qualcuno, ma per chi e da parte di chi? Se gli inquirenti ipotizzano la pista nera, due telefonate anonime suggeriscono la matrice mafiosa, ma i giudici non possono permettersi di trascurare nessuna ipotesi. Alla procura di Firenze, intanto, il magistrato Pierluigi Vigna indaga in ogni direzione. Per prima cosa Vigna esamina la scena del crimine, cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'attentato. La dinamica dell'attentato prevedeva che questo esplosivo fosse attivato da un telecomando che stava fuori del treno. Inoltre si voleva essere ben sicuri, e questa è la vigliaccata maggiore, che l'esplosione avvenisse dentro la galleria. Quella era la prima volta in cui si faceva una strage con un telecomando. Roma, 29 marzo 1985. Nel corso di una perquisizione contro elementi della malavita, in un appartamento di Prati, la squadra mobile ritrova due valigette contenenti radiocomandi a lungo raggio. Il proprietario dell'appartamento è Guido Cercola, un uomo di cerniera tra la mala romana e Cosa Nostra. Di lui si sa che è il luogotenente del boss mafioso Pippo Calò. Cercola racconta a Vigna di aver commissionato i radiocomandi per un sistema antifurto. A realizzarli è stato un cittadino tedesco, Friedrich Schaudin, un uomo misterioso. Così il magistrato Pierluigi Vigna. Sì, si stabiliscono che i radiocomandi fatti da Schaudin erano perfettamente utili per compiere questo genere di attentato. Cioè furono provati con uno degli apparecchi fatto da Schaudin, andando poi all'inizio della galleria e dando l'impulso col telecomando, che fu positivo. Schaudin disse chiaro chiaro che ne aveva fatti 12, ma che ne mancava uno. E allora anche questo fu un dato che ci indusse a ritenere che quell'uno fosse stato usato proprio per la strage. Interrogato a Roma, Schaudin ammette di aver consegnato il timer a Cercola all'inizio del dicembre dell'84. Schaudin sapeva che quei radiocomandi non potevano servire ad altro che a un attentato. Il loro prezzo, 18 milioni di lire. A pagare la somma, dice lui, è stato il boss di Cosa Nostra, Pippo Calò. Pippo Calò non è un boss qualunque. Nato a Palermo, si è trasferito a Roma, dove, facendosi chiamare Mario Aglialoro, si occupa di riciclare il denaro di Cosa Nostra. Per questo lo chiamano il cassiere della mafia, un ruolo che lo ha portato a contatto con la banda della Magliana, la massoneria, i vertici dell'economia e della politica. Legami inquietanti, tanto da coinvolgerlo anche nelle indagini sull'omicidio Pecorelli e nel caso Calvi. Così racconta il giornalista Attilio Bolzoni. Lui faceva il commesso in un negozio di abbigliamenti, vendeva tessuti da ragazzo e mi immaginavo sempre vedendolo come uno va a comprare i tessuti, si ritrova un signore dall'altra parte del banco che gli vende delle stoffe, era un negozio di stoffe, e poi invece aveva un'altra vita dove ordinava strage, omicidi, faceva traffico di stupefacenti. Il giudice Vigna indaga su Calò. L'11 maggio 1985, meno di 3 mesi dopo il ritrovamento dei radiocomandi, in un casale di Poggio San Lorenzo, vicino Rieti, vengono trovati alcuni detonatori, 6 cariche di tritolo e 2 panetti di esplosivo Sentex, di cui uno parzialmente utilizzato. Il casale è stato affittato a un certo signor Aglialoro, ovvero Pippo Calò. Così la ricostruzione del magistrato Pierluigi Vigna. Si andò nella cantina col proprietario e il proprietario disse: ma questa cantina è più corta di quello che io avevo affittato al signor Calò, detto anche Aglialoro. E allora c'era un muro, gettammo giù questo muro, fu gettato giù questo muro e lì si trovarono valigette, un esplosivo, una mina. E erano proprio gli esplosivi che erano serviti. Per la prima volta nella storia delle stragi, un'inchiesta sembra essere partita subito con il piede giusto. E invece non è affatto così, ma un altro pezzo di verità arriva da Napoli, da dove è partito il rapido 904. Già nei giorni successivi alla strage di Natale, in città corre una voce allarmante. Qualcuno avrebbe parlato dell'attentato al treno negli uffici della questura. Qualche settimana prima del 23 dicembre, così la giornalista Marisa Figurato. Qualche giorno prima di Natale del 1984, un ex poliziotto parlò in questura dell'ipotesi di un attentato a un treno alla vigilia di Natale. Nessuno lo prese in considerazione. Dopo l'attentato al treno, però, le parole di quel poliziotto che si chiamava Carmine Esposito furono riconsiderate. Carmine Esposito attribuisce la profezia alla visione di un cartomante e gli inquirenti lo arrestano per reticenza. Si mettono al lavoro per cercare di capire da chi Esposito possa aver saputo dell'attentato. L'ex poliziotto è una figura controversa. Ha precedenti penali, è stato un attivista di avanguardia nazionale e frequenta la banda criminale che spadroneggia nel rione Sanità. Una gang di rapinatori con simpatie di destra, guidati da un personaggio spavaldo e a suo modo mitico, Giuseppe Misso, detto Onasone. Così la giornalista Marisa Figurato. Misso in origine in effetti era un grande rapinatore, un rapinatore di banche, fece dei colpi clamorosi, uno all'agenzia dei pegni del Banco di Napoli, se non ricordo male, 5 miliardi dell'epoca il bottino. Quindi quella era la sua specialità. E naturalmente controllava questo quartiere del cuore di Napoli, che è il quartiere della Sanità. E contemporaneamente Misso aveva anche un soprannome, lo chiamavano un fascista. Io ho votato per il Movimento Sociale Italiano. Se questo vuol dire essere simpatizzante di destra o essere fascista, come voi vi chiamate, insomma, lo sono. Queste le parole di Peppe Misso, un tempo scugnizzo nei vicoli di intorno al Duomo, ora criminale di spicco. Organizza rapine spettacolari. Ed è a capo di una banda eterogenea che riunisce camorristi, mafiosi, criminali veneti. Continuiamo subito dopo la pubblicità con la storia di quel treno maledetto, il rapido 904. Rieccoci a Radio 24. Oggi raccontiamo la storia della strage avvenuta sul rapido 904 il 23 dicembre dell'84. Giuseppe Misso, detto Nasone, è una figura enigmatica di questa storia. Non fa parte di un clan camorrista, ma ha contatti con i gruppi più importanti della criminalità organizzata e soprattutto ha legame con Carmine Esposito e per questo si trova indiziato per la strage di Natale. Ma un Nasone, subito dopo l'attentato, è irreperibile. Si trova in Brasile, dove si è sottoposto a una plastica facciale. Intanto a Napoli le indagini continuano ed è un continuo colpo di scena. Napoli, 7 luglio 1985. Il clan Misso viene decimato da una retata e qualcuno degli affiliati comincia a parlare anche dell'attentato al treno del 23 dicembre del 1984. Mario Ferraiuolo e Lucio Longo rivelano che il clan Misso destinava parte dei fondi delle rapine all'attività politica. E che nelle settimane prima dell'attentato ci sarebbero state delle riunioni segrete a cui avrebbe partecipato anche un deputato dell'MSI, Massimo Abatangelo. Così la giornalista Marisa Figurato. Abatangelo ama presentarsi come un Bud Spencer della politica, cioè lui è quello che fa a botte. È sicuramente vero. Ha avuto, credo, 53 processi per vicende di vario tipo in quell'epoca e una condanna per una bottiglia Molotov contro una sezione del Partito Comunista. È inevitabile che ci siano dei punti di contatto fra chi la violenza la esercita per mestiere, diciamo così, la criminalità organizzata, e chi la violenza la esercita con una finalità politica. Tenete presente che Giuseppe Misso, fino al 1984, non è stato mai accusato, mai, di camorra e di associazione camorristica. E posso dirci anche di esserci stato amico a Giuseppe Misso, perché si mise a disposizione per la mia campagna elettorale. Ora, questa camorra, che si schierava con il Movimento Sociale Italiano, con la certezza di non poter avere niente, di non poter avere un appalto, di non poter avere un favore, di non poter avere niente, manco una raccomandazione per un detenuto, mi sembra un po' strano. Avete sentito Massimo Abatangelo. A questo punto, anche nell'inchiesta della strage di Natale, entra in gioco la pista politica. Frequentava Avanguardia Nazionale, l'uomo che ha preannunciato la strage, Carmine Esposito. a idee neofasciste Giuseppe Misso, nella cui abitazione vengono ritrovati cimeli di Mussolini, e Missino a Batangelo, l'uomo a cui Misso porta i voti che il 24 dicembre dell'84, il giorno dopo la strage, ha appuntamento proprio con Carmine Esposito. La pista napoletana, insomma, si tinge di nero e la posizione di Abbatangelo si complica. Lucio Luongo racconta di aver avuto in consegna dal parlamentare Missino una borsa piena di esplosivo alcune settimane prima della strage di Natale. Così il consigliere comunale Massimo Abbatangelo. Io, che mi reputo non uno scienziato ma una persona modestamente intelligente, non avevo nessuno a cui affidare la valigia con questi esplosivi, ci portala a tale indirizzo. No, andavo io direttamente a portarcela come uno schiavetto qualunque. In una perquisizione della casa di Abbatangelo a Mare Chiaro vengono ritrovati pistole e centinaia di proiettili. Dopo un anno di latitanza, Abbatangelo si costituisce. Ascoltiamolo. Ha scritto sempre a verbale. Io sono andato lì. Io, ripeto, parlamentare, consigliere comunale, componente dell'ufficio politico del partito, ho detto io vi do questi miei 5 chili perché io voglio partecipare moralmente a questa storia. Io dovevo essere chiuso ancora in manicomio adesso. Secondo me non era un esplosivo dato per fare l'attentato al treno. Era un esplosivo dato per cementare l'unione. Così il magistrato Pierluigi Vigna. Ma Ferraiolo e Luongo parlano anche di cosa sarebbe successo la mattina del 23 dicembre dell'84. Poco prima di mezzogiorno, Misso avrebbe ordinato a Carmine Lombardi, il più giovane della banda, di recarsi con urgenza alla stazione e prendere il primo treno per Roma. Sarebbe stato proprio Lucio Luongo ad accompagnarlo alla stazione di Napoli Centrale, la stessa da cui è partito il rapido 904. Così racconta la giornalista Marisa Figurato. Un giovane, un ragazzo di 17 anni, Carmine Lombardi, che era un lavorante, se mal non ricordo, in un negozio di Misso. Si disse che aveva portato l'esplosivo sul treno, era salito sul treno con l'esplosivo. Questo ragazzo dopo fu ucciso. Misso fu accusato di essere il mandante di questo omicidio, ma è stato assolto da questa accusa. Le due piste, insomma, quella siciliana e quella napoletana, danno entrambe riscontri convincenti. È la prima volta che gli inquirenti di una strage si trovano davanti a un intreccio di questo tipo. Mafia e camorra coalizzate in un unico disegno criminale, un legame inedito che nasce da un cambiamento epocale. Avvenuto nei primi anni Ottanta a Napoli come a Palermo, così i giornalisti Attilio Bolzoni e Francesco Lalicata. Dalla primavera del 1981 all'autunno del 1983, nelle quattro province della Sicilia occidentale, Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, sono stati uccisi 1611 mafiosi. La mafia politica palermitana era stata in qualche modo soppressa, completamente soppressa, dalla guerra di mafia vinta dai corleonesi. In quegli stessi anni a Napoli è successo qualcosa di molto simile. La camorra storica di Cutolo viene spazzata via da un'alleanza di clan emergenti, la Nuova Famiglia. Così racconta Marisa Figurato. Nel 1983 ci fu un blitz con 856 arresti, tutti in una notte, fu il famoso blitz contro la nuova camorra organizzata, nel quale poi incappò Enzo Tortora, con tutte le conseguenze che sappiamo per questo tragico errore. I Corleonesi e la Nuova Famiglia, i due gruppi vincenti della guerra di mafia e camorra, fanno affari insieme e sono alleati. E in questa alleanza, secondo la Procura di Firenze, le figure di raccordo sono Pippo Calò e Giuseppe Misso, criminali abili a tessere relazioni. I due uomini al centro delle inchieste sul rapido 904. Così la testimonianza del magistrato Pierluigi Vigna e il capo della squadra mobile di Napoli, Franco Gratteri. Il legame tra Calò e Misso viene dalle dichiarazioni fatte da Ferraiolo, da Luongo. Vennero fuori delle proiezioni romane, vennero fuori dei collegamenti con l'ambiente che Pippo Calò, che all'epoca rappresentava Cosa Nostra a Roma, diciamo, era a capo, si diceva, di una cellula. Dunque, secondo Vigna, la banda Misso è l'appendice romana della mafia. hanno stretto un'alleanza strategica. Ma cosa c'entra tutto questo con la strage del 904? Perché mafia e camorra d'improvviso avrebbero voluto colpire un obiettivo indiscriminato, uccidendo e mutilando decine di innocenti? Secondo gli inquirenti la risposta va cercata nel contesto di quell'84, così i giornalisti Marisa Figurata e Bolzoni. Il 1984 in Italia si è aperto con l'omicidio di Giuseppe Fava in Sicilia. Venivano Buscetta e Sindona estradati tutti e due persone che sapevano molto di molte cose che non riguardano soltanto la mafia. Buscetta scende dall'aereo che dal Brasile l'ha portato a Roma, decide di collaborare e di fare i nomi di migliaia di mafiosi, ma soprattutto consegna a Giovanni Falcone la chiave per entrare dentro Cosa Nostra e decifrarla e decodificarla. 15 luglio dell'84, Tommaso Buscetta sbarca all'aeroporto di Fiumicino a Roma e al giudice Falcone inizia a raccontare tutto quello che sa di Cosa Nostra. Gli uomini, le gerarchie, le strategie, i codici. Le sue dichiarazioni sono il pilastro di quell'inchiesta che approderà al maxi processo di Palermo e cambierà per sempre la storia della criminalità organizzata in Italia. E secondo Vigna, proprio le dichiarazioni di Buscetta sono all'origine della strage del Rapido 904. Attraverso quell'attentato così simile all'Italicus, mafia e camorra volevano far ripiombare l'Italia nell'incubo del terrorismo, distraendo l'attenzione dalle inchieste di Palermo, così il magistrato Pierluigi Vigna. Non penso, ecco, che Calò abbia gestito tutto in sua autonomia. Quando gli vengono messi dentro in carcere 400-450 uomini d'onore, lui deve fare qualcosa anche per avere poi meriti dall'organizzazione. E quindi penso che si accoppi anche a questa motivazione. Ma il processo va in maniera strana. A Napoli, parenti di Ferraiuolo subiscono intimidazioni e attentati, mentre Lucio Luongo tenta addirittura il suicidio inghiottendo lamette da barba e chiodi. Spiega il suo gesto per lo sconforto, per le minacce subite dai suoi familiari. Nell'ottobre 1988 il colpo di scena. I due pentiti smettono di collaborare e ritrattano le accuse. Queste le parole di Lucio Luongo. Niente è accaduto. Paura, eh? No. Paura di niente. Com'è possibile? Lei in istruttoria ha lanciato accuse ben precise. Non sono accuse ben precise, sono cose che sono state capite male, sono state interpretate male. Anche qualcos'altro va storto. L'uomo dietro i radiocomandi del 904, il cittadino tedesco Friedrich Schaudin, si sottrae ai domiciliari e fugge in Germania. Queste le sue parole. Un funzionario del consolato è venuto a casa nostra. Si è informato sulle faccende mie giudiziarie e nel giro di una decina di giorni lui mi portò il passaporto nuovo a casa mia. Quindi le autorità tedesche hanno, in un certo qual modo, si può anche dire, mi hanno dato un piccolo appoggio, sì. Com'è possibile che Friedrich Schaudin, implicato in una strage così orrenda, sia stato lasciato libero di fuggire? E perché il governo italiano non ha mai chiesto la sua estradizione? Per la sua fuga Vigna mette sotto inchiesta i servizi segreti per favoreggiamento aggravato da finalità di terrorismo. Ma la carriera criminale di Schaudin non finisce con la strage di Natale. Schaudin, di origini tedesche, riparò a Francoforte dopo aver ammesso di essere stato lui a fornire i congegni a Guido Cercola, braccio destro di Pippo Calò. Poi sparì per ricomparire nella Croazia appena uscita dalla guerra con i serbi. Zagabria, che ha collezionato un ingente arsenale bellico, ora vende. Il mercante è proprio Schaudin, che si avvale di un collaboratore italiano, Giovan Battista Licata, imputato per mafia vicino al clan fidanzati. Ad Armanforte a Schaudin ci sono gli Ustascia, neofascisti croati, e ci sono certamente settori dei servizi segreti. La conclusione del processo è contraddittoria. Il teorema dell'accusa è in parte confermato, in parte smentito. Vengono condannati come mandanti della strage i mafiosi Calò e Cercola, mentre Misso e i suoi sono condannati per reati minori, come la detenzione di esplosivo, ma vengono riconosciuti estranei alla strage. Con la sentenza sfuma il doppio binario, il collegamento tra matrice mafiosa e pista nera napoletana. A Batangelo viene processato separatamente, ma anche per lui l'esito è analogo. Condannato per l'esplosivo e scagionato dall'accusa di strage. Per il 904 dalla castrazione è stato operato una specie di aborto. Quella strage cominciò con 5 ergastoli in corte d'assise e l'iter processuale alla fine si ridusse a 2 ergastoli per Calò e per Cercola, con pene minori agli altri. Per la prima volta in Italia un processo per strage si conclude con delle condanne definitive. Dopo la viabilità continuiamo a raccontare la complessa indagine per la strage del Rapido 904. Rieccoci a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia della strage del Rapido 904. Quella del Rapido 904 per i giudici è stata una strage di mafia, ma come per tutti i processi sulle stragi, anche la sentenza sul Rapido 904 lascia aperti dubbi e interrogativi. Se i napoletani sono estranei all'attentato, come ha potuto Esposito preannunciare la strage in quel dicembre dell'84, dove è andato Lombardi dopo essere salito sul Rapido 904? Perché a Batangelo avrebbe consegnato l'esplosivo a Misso? Intanto, in questa storia c'è l'ennesimo colpo di scena. Il 15 maggio del 2001 a Napoli viene ucciso Mario Ferraiuolo, uno dei pentiti della banda Misso. Dell'omicidio il reo confesso proprio il capobanda, cioè Giuseppe Misso. Ma indagando su questo omicidio la procura di Napoli trova nuovi testimoni che parlano del ruolo di Misso e della presenza di apparati oscuri nella strage di Natale. Sono Salvatore e Luigi Giuliano, camorristi potentissimi della Napoli degli anni Ottanta e amici d'infanzia di Peppo Misso. Così la ricostruzione del magistrato Paolo Itri. Il Missi sostanzialmente rivendicava a sé, insomma, secondo quello che dice Salvatore Giuliano, rivendicava a sé la paternità della strage, dicendo che si trattava di un fatto, era stato un fatto politico. Il Giuliano, Luigi in particolare, e anche Salvatore, parlano di quelle che erano le attività illecite di questa organizzazione segreta che era la Fenice, alla quale il Missi avrebbe appartenuto. Parrebbe che questa associazione segreta venisse alimentata dal Missi attraverso una parte cospicua dei proventi delle attività delittuose e delle rapine compiute dall'organizzazione. Il Missi propose al Giuliano di entrare a far parte di questa organizzazione. Quindi quello che noi sappiamo di questa organizzazione o presunta tale lo conosciamo tramite le dichiarazioni del Giuliano, il quale riferisce che il Missi gli raccontava della affiliazione, della partecipazione a questa organizzazione di personaggi delle istituzioni, di personaggi legati ai servizi segreti. Le confessioni di Giuliano dunque, oltre che alla responsabilità di Misso, coinvolgono gruppi della destra eversiva e ambienti riconducibili ai servizi segreti. Ma nell'84 i nostri servizi segreti sono sotto inchiesta. Roma, ottobre 1984. L'indagine su un super sismi ipotizza un servizio segreto parallelo in cui sono coinvolti gli ufficiali Musumeci e Belmonte e il faccendiere Francesco Pazienza, vicini alla loggia massonica P2. Musumeci, Belmonte e Pazienza in quegli stessi mesi vengono anche accusati di aver depistato l'inchiesta sulla strage di Bologna, accusa per la quale saranno condannati in via definitiva nel 1994. Così la ricostruzione del giornalista Gianni Flamini. Ci si chiedeva se anche questa volta a un'azione contro i servizi messi in piazza brutalmente non corrispondesse una reazione dei servizi per riacquistare o perlomeno per sviare l'attenzione da loro e indirizzarla su qualche altro crimine, ecco. Nell'84 sembra che improvvisamente l'orizzonte del terrorismo italiano sia rimasto completamente sgombro di organizzazioni che possano fare certi lavori. E allora si torna all'inizio, si torna alla mafia, che è sempre disponibile dal 47 in qua. Ma laddove questa sinergia diventa evidente, inquietante assai, dopo il 92, quando assistiamo a una vera e propria trattativa diretta tra questi ambienti strani, che poi sono sempre gli stessi, sono tanto impalpabili quanto conosciuti, nel senso che stiamo parlando della massoneria, stiamo parlando di poteri finanziari ed economici che di volta in volta hanno necessità di riadattare un contesto politico, geopolitico e sociale in funzione. Uno scenario inquietante che costringe a ripensare con una nuova prospettiva decenni di strage e di violenza in Italia. Ma oltre all'ipotesi e alla dichiarazione di Giuliano, c'è anche un altro riscontro che spinge gli inquirenti a indagare sul coinvolgimento di ambienti legati ai servizi. La scoperta viene dalle nuove perizie sull'esplosivo usato nella strage di Natale, così il magistrato Paolo Itri. Nella strage Rapido 904 viene utilizzata una combinazione di sostanze esplodenti che è assolutamente particolare. Semtex H e il Brixia B5. Nel corso del processo alla strage Rapido 904 c'è un soggetto, tale Luongo Lucio. Ecco, nella fase della sua collaborazione fornisce una descrizione dell'esplosivo che l'Abatangelo avrebbe consegnato a Missi, che è esattamente corrispondente al Brixia 5. E Luongo Lucio, in sostanza, nel 1985, nel 1986, parla di un tipo di esplosivo che entrerà poi in gioco successivamente, per la prima volta nel 1989, quindi a distanza di qualche anno, che è lo stesso tipo di esplosivo che viene rinvenuto all'Addaura. All'Addaura, località di villeggiatura del palermitano, quella combinazione di esplosivi serve per colpire la villa del giudice Giovanni Falcone. Ma l'attentato viene sventato. È il giugno del 1989, 3 anni prima della strage di Capaci. Così raccontano Paolo Itri e Attilio Bolzoni. Le stesse sostanze esplodenti verranno rinvenute sul luogo dell'attentato di Via D'Amelio. Il giorno prima dell'uccisione di Borsellino, in un garage di Brancaccio hanno caricato la 126 che doveva far saltare il procuratore Borsellino in aria. C'erano dei mafiosi che la caricavano di esplosivo, ma insieme a quei mafiosi qualcuno dice che c'era un uomo dei servizi segreti. Inchieste ancora aperte, misteri d'Italia che si rincorrono intrecciandosi l'uno all'altro. E a volte con riscontri oggettivi, altre volte semplicemente per via di ipotesi suggestive. Una cosa comunque certa, dietro la strage del Rapido 904 c'è stato un patto criminale contro lo Stato. Ma come sempre per cercare delle risposte occorre sapere quali sono le domande. E allora, qual è stato il vero ruolo del gruppo napoletano nella strage? È vero che c'è stato un intreccio tra corleonesi, destra eversiva e apparati legati ai servizi segreti? Chi ha fornito Brixia B5 per la strage di Natale? È davvero la stessa partita di esplosivo usata per il fallito attentato all'Addaura e per la strage di Via D'Amelio? E arrivare alla verità sul Rapido 904 significherebbe veramente trovare l'anello mancante tra le stragi della strategia della tensione e quelle di mafia del 92-93? Io prima di questa cosa ero una ragazza che tranquillamente andava all'università, viaggiava così. Poi sono subentrate in me delle paure, avevo paura di attraversare, avevo paura di scendere per le scale, avevo paura di cadere, avevo paura di qualsiasi cosa più semplice o più assurda potesse capitare. Credo che un pezzo, insomma, della mia gioventù, di averlo lasciato lì, insomma. Tutto quello che è successo dopo è stato tutto più complicato. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, al mitico stagista Manuel Guerrini e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana. Thank you.